Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Andrés si era annunziato alle posizioni dei repubblicani. Si era buttato giù, cioè dove il terreno precipitava bruscamente sotto il triplice recinto di filo di ferro spinato, e aveva urlato verso il parapetto di terriccio e di sassi. «Salud!» aveva gridato. «Salud, milicianos!» Sentì lo scatto di una sicura. Poi, da dietro il parapetto lontano, un fucile sparò. Vi fu una detonazione secca e una lingua gialla di fuoco all'ingiù nell'oscurità. Andrés, allo scatto della sicura, si era appiattito, affondando la testa nel terreno. «Non sparate, compagni!» urlò Andrés. «Non sparate, fatemi entrare!» «In quanti siete?» qualcuno domandò da dietro il parapetto. «Uno, io solo! Chi sei?» «Andrés López di Villa Conejos, della banda di Pablo, con un messaggio!» «Hai il fucile e l'equipaggiamento?» «Sì, ombre!» «Non possiamo far entrare nessuno senza il fucile e l'equipaggiamento», la voce disse. «È in gruppi di non più di tre. Io sono solo», urlò Andrés. «È importante, fatemi entrare». Li udiva parlare dietro il parapetto, ma non capiva quello che dicevano. Poi la voce riprese. «In quanti siete?» «Uno, io solo, per amor di Dio». Ricominciarono a parlare dietro il parapetto. Poi la voce disse. «Senti, fascista». «Io non sono fascista», urlò Andrés. «Sono un guerrigliero della banda di Pablo. Porto un messaggio per il comando». «È pazzo», qualcuno disse. «Buttagli una bomba». «Fratelli», disse Andrés. Era tutto fradicio di sudore e sapeva che quello della bomba era capacissimo di buttargliela. «Io non ho nessuna importanza». «Ci credo», disse l'uomo della bomba. «Hai ragione», disse Andrés. Si stava districando con cura dal terzo recinto ed era assai vicino al parapetto. «Io non ho nessuna specie di importanza, ma si tratta di una faccenda seria, muy, muy seria». «Non c'è cosa più seria della libertà», disse l'uomo della bomba. «Tu credi che ci sia qualcosa di più serio della libertà?» chiese con tono di sfida. «No, ombre», disse Andrés sollevato. Sapeva ora di avere a che fare con quei pazzi dalle sciarpe rosse e nere. «Viva la libertà! Viva la FAI! Viva il CNT!» gli gridarono di rimando dal parapetto. «Viva l'anarco-sindacalismo e la libertà! Viva nosotros!» gridò Andrés. «Viva noi! È un nostro correligionario!» disse l'uomo della bomba. «E io per poco non l'ho ucciso con questa!» Guardò la granata che aveva in mano e, mentre Andrés scavalcava il parapetto, si commosse vivamente, abbracciandolo con la granata sempre in mano, appoggiata alla spalla di Andrés. L'apostolo della bomba baciò Andrés sulle due guance. «Sono felice che non ti sia successo niente, fratello», gli disse. «Sono molto contento». «Dov'è il tuo ufficiale?» domandò Andrés. «Qui comando io», disse un uomo. «Mostrami le tue carte». Le portò in una trincea e le guardò alla luce di una candela. C'era il quadratino di seta ripiegato con i colori della Repubblica e il sigillo del SIM al centro. C'era il salvaconducto con nome, età, la statura, il luogo di nascita e la missione, scritto da Robert Jordan su una pagina del suo taccuino e autenticato col timbro di gomma del SIM. E c'erano i quattro fogli del messaggio a Goltz che erano legati con uno spago e sigillati con la ceralacca e l'impronta del bollo di metallo del SIM fissato all'estremità del manico del timbro di gomma. «Questo lo conosco», disse il comandante del posto, restituendo ad Andrés il quadratino di seta. «Questo l'avete tutti, lo so, ma il suo possesso non dimostra niente senza questo». Sollevò il salvaconducto e lo rilesse. «Tutti voi altri dovreste venire nella Repubblica, entrare nell'esercito», disse l'ufficiale. «Questa stupida guerra si sta allargando troppo. Dovreste venire da questa parte, tutti, e sottoporvi alla nostra disciplina libertaria. Poi, ogni volta che ci sembrasse utile, potremmo mandar fuori i guerriglieri secondo il caso». «Ascoltami, compadre», disse Andrés. «È possibilissimo che tu abbia ragione, ma io ho l'ordine di consegnare questo dispaccio al generale comandante della 35esima divisione, che all'alba sferrerà un attacco su queste colline, ed è già notte avanzata e debbo andare». «Quale attacco? Che ne sai tu di un attacco? Niente, niente, io non so niente, ma ora devo andare a Navaserrada e proseguire di lì. Vuoi mandarmi dal tuo comandante perché mi dia un mezzo di trasporto? Manda qualcuno con me, perché non ci siano altri ritardi. Qualunque fascista potrebbe inventare una missione simile. Hm? Ti accompagnerò io stesso dal comandante. Bene, disse Andrés. Vieni pure, ma andiamo presto. L'ufficiale si fermò bruscamente davanti a lui. Tu hai ancora la tua carabina? Sì, disse Andrés. Perché no? Dammela, disse l'ufficiale. Potresti spararmi nella schiena. Perché? Domandò Andrés. Dovrei spararti nella schiena. Chissà, disse l'ufficiale. Io non mi fido di nessuno. Dammi la carabina. Andrés se la sfilò e gliela tese. Se ti fa piacere, portala. È meglio, disse l'ufficiale. Siamo più sicuri così. Adesso erano nella caverna e gli uomini stavano in piedi intorno al fuoco che Maria ravvivava. Pilar aveva preparato il caffè in un bricco. Non si era più coricata dopo aver svegliato Robert Jordan e adesso, seduta su uno sgabello nella caverna fumosa, cuciva lo spacco del secondo sacco di Jordan. L'altro era già stato cucito. Il suo viso era illuminato dal fuoco. Robert Jordan si accovacciò accanto al paniere, a fianco di Eladio, vi mise dentro la mano e ne tolse 4 granate. 3 erano del tipo ovale 1000, di ferro pesante, compatto, con una leva a molla tenuta a posto da una sticciola d'arresto, con una presa a strappo. «Queste da dove vengono?» chiese Eladio. «Quelle? Sono della Repubblica, le ha portate il vecchio. Come sono?» «Valen mas que pesan», disse Eladio. «Valgono un patrimonio ognuna». «Le ho portate io», disse Anselmo. 60 in una cassetta, 40 chili circa, inglese». «Esplodono immediatamente?» «Secondo la distanza alla quale si riesce a gettarle». «Immediatamente, però, quasi immediatamente. E le altre?» Mostrava una bomba di forma cilindrica, con una fettuccia avvolta intorno, tenuta a posto da un anello di sicurezza. «Queste sono immondizia», disse Eladio. «Esplodono, sì, ma sono tutta fiamma, niente schegge». Ma esplodono sempre? Che va, sempre, disse Pilar. Non c'è mai sempre, sia con le nostre munizioni che con quelle degli altri. Ma se hai detto che le altre esplodono sempre. Non l'ho detto io, disse Pilar. L'hai chiesto a un altro, non a me. Io non ho mai visto un sempre in tutta quella roba. Esplosero tutte, insisteva Eladio. Di la verità, mujer. Come lo sai che sono esplose tutte? Gli chiese Pilar. È stato Pablo a buttarle. Tu, Otero, non hai ucciso nessuno. Quel figlio della gran puttana, Agustin cominciò. Lascia stare, disse Pilar bruscamente. Poi riprese. Sono quasi tutte a modo, inglese, ma quelle sfaccettate sono più semplici. Farò meglio a usarne una di ogni tipo, pensò Robert Jordan. Ma il tipo sfaccettato si può legare più facilmente e con maggior sicurezza. Dunque butterai delle bombe, inglese? Domandò Agustin. Perché no? Disse Robert Jordan. Ma accovacciato lì, scegliendo le bombe, pensava. È impossibile. Non posso essermi accecato io stesso, non lo so. Quando attaccarono il sordo, fu per noi una catastrofe altrettanto grave, come per il sordo quando la neve cessò. La verità è che tu ti rifiuti di riconoscerlo. Tu ti senti obbligato a fare un piano, anche se sai che è assurdo. Hai fatto il tuo piano ed ora capisci che non serve. Ora la luce del giorno non serve. Con gli uomini che hai qui puoi prendere benissimo uno dei posti di guardia, ma non puoi prenderle tutti e due. Non puoi esserne certo, voglio dire. Non ingannare te stesso, perlomeno non alla luce del giorno. Guardò in su, accovacciato com'era sotto la tavola, e vide Maria e gli sorrise. Egli le restituì il sorriso superficialmente e scelse quattro bombe e se le mise nelle tasche. Potrei svitare i detonatori e usare questi, pensò. Non credo che la frammentazione nuocerà. Si avrà un effetto istantaneo con l'esplosione della carica e non vi saranno dispersioni. Perlomeno non lo credo. Sono certo di no. Abbi un po' di fiducia, disse a se stesso. Pilar gli si avvicinò col sacco. Ora è forte, disse. Quelle bombe sono buonissime, inglese. Puoi fidartene. Come ti senti, donna? Lei lo guardò, scosse la testa e sorrise. Chissà, pensò lui, dove arriva questo sorriso. Sembrava abbastanza profondo. Bene, disse Pilar, dentro della gravedad. E aggiunse, accovacciandosi accanto a lui, che te ne pare, adesso che comincio sul serio? Che siamo in pochi, le disse in fretta Robert Jordan. Pare anche a me, fece Pilar. Pochissimi, disse poi sempre soltanto a lui. La Maria può custodire i cavalli da sola. Non c'è bisogno di me per questo. Legheremo loro le gambe davanti. Sono cavalli di cavalleria e i colpi non li spaventano. Io andrò al posto di guardia in basso e farò quello che avrebbe dovuto fare Pablo. Così guadagneremo un uomo. Bene, egli disse. Pensavo che l'avresti desiderato. Senti, inglese, disse Pilar guardandolo fisso. Non ti preoccupare, tutto andrà bene. Ricordati che quelli là non si aspettano una cosa simile. Thank you. Ascolta, Inglese, cominciò Pilar. Robert Jordan la guardava. Vide la bocca spalancarsi e un'espressione incredula apparire sul suo viso e si voltò verso l'imboccatura della grotta, afferrando la pistola. Là, sull'imboccatura, tenendo scostata con una mano la coperta, la corta canna carica del fucile automatico sporgente dalla spalla, tarchiato, largo, irsuto, stava Pablo e guardava nell'interno della caverna con i suoi occhietti orlati di rosso senza fissare nessuno dei presenti. «Tu!» gli disse Pilar incredula. «Tu!» «Io?» disse senza scomporsi Pablo ed entrò nella grotta. «Hola, Inglese!» disse. «Ho su con i cavalli 5 uomini delle bande di Elias e di Alejandro. E l'esploditore e i detonatori?» disse Robert Jordan. «E l'altro materiale?» «Ho buttato tutto giù per la gola nel fiume», disse Pablo, sempre senza guardare nessuno. «Ma ho pensato che si può usare come detonatore una bomba a mano». «Ci ho pensato anch'io», disse Robert Jordan. «Hai un sorso di qualche cosa?» chiese Pablo stancamente. Robert gli tese la fiaschetta ed egli beve in fretta, poi si asciugò la bocca col rovescio della mano. «Che ti succede?» domandò Pilar. «Nada», disse Pablo asciugandosi di nuovo la bocca. «Niente, sono tornato». «Ma che cosa è successo?» «Niente, ho avuto un momento di debolezza. Sono andato via, ma sono tornato». Si volse a Robert Jordan. «E nel fondo non soy cobarde», disse. «E in fondo non sono un vigliacco». «Ma sei molte altre cose», pensava Robert Jordan. «Altro che, Dio mi maledica se non è così, ma sono contento di vederti, figlio di puttana». «Non ho potuto avere più di 5 uomini da Elias e Alejandro», disse Pablo. «Cavalco da quando me ne sono andato di qui. In 9 non ci sareste mai riusciti, mai. L'ho capito l'altra sera quando l'Inglese ce l'ha spiegato. Mai. Al posto di guardia più in basso sono in 7 uomini e un caporale. Mettiamo che uno dia l'allarme o che si difendano». Ora guardava Robert Jordan. «Quando me ne sono andato», continuò, «pensavo che l'avresti capito anche tu e che ci avresti rinunziato. Poi, dopo aver buttato via il materiale, ho visto le cose diversamente». «Sono contento di vederti», disse Robert Jordan andando verso Pablo. «Andrà benissimo anche con le bombe. Serviranno ottimamente. Il resto ora non importa». «Come sono questi uomini che hai portato?» gli chiese Pilar. «Valeva la pena di portarli?» «Son buenos», disse Pablo. Si fece coraggio e guardò Pilar bene in faccia, poi volse altrove lo sguardo. «Buenos y bobos, buoni e stupidi, pronti a morire, eccetera, a tu gusto, come piacciono a te». Pablo guardò di nuovo Pilar negli occhi e questa volta non distolse lo sguardo, ma continuò a guardarla fisso con i suoi occhietti porcini cerchiati di rosso. «Tu», ella disse, e la sua voce rauca era di nuovo affettuosa. «Tu, se un uomo ha avuto una cosa una volta, ne rimane sempre un poco, immagino». «Listo», disse Pablo guardandola ora fisso e senza espressione. «Sono pronto per quello che ci porterà la giornata». «Ci credo che sei tornato», Pilar gli disse. «Ci credo, ma ombre, te ne eri andato molto lontano». «Prestami un altro sorso della tua fiasca», disse Pablo a Robert Jordan, «e poi andiamo». Thank you. nell'oscurità salirono su per la collina, attraverso il bosco, fino allo stretto valico su in cima. Erano tutti pesantemente carichi e si arrampicavano lentamente. Anche i cavalli portavano carichi pesanti legati alle selle. «Se sarà necessario», aveva detto Pilar, «potremo alleggerirli, ma nel caso contrario, con questa roba ci si può fare un altro campo». «E il resto delle munizioni?» aveva chiesto Robert Jordan mentre legavano i sacchi. «Nelle saccocce delle selle». «Ingles», gli disse Pablo camminandogli al fianco nell'oscurità. «Che c'è, ombre? Questi che ho portato credono che la faccenda riuscirà perché ho portato loro. Non dire niente che possa disilluderli». «Bene», disse Robert Jordan, «ma cerchiamo di farla riuscire». «Hanno 5 cavalli, Saves», Pablo disse cautamente. «Bene», disse Robert Jordan, «terremo tutti i cavalli insieme». «Bene», disse Pablo, e non aggiunse altro. Da quando Pablo era entrato nella grotta e aveva detto di avere con sé 5 uomini, Robert Jordan si sentiva molto meglio. Il ritorno di Pablo aveva spezzato la tragica rete in cui l'intera operazione sembrava impigliata dalla nevicata in poi, e da quando Pablo era tornato, Robert Jordan sentiva non che la sua fortuna fosse cambiata, non credeva alla fortuna, ma che l'intera faccenda aveva preso una piega migliore e che ora era diventata possibile. Invece della certezza del disastro, sentiva la fiducia salirgli dentro come un copertone si riempie di aria insufflata da una pompa mossa con lentezza. In principio se n'era accorto appena, sebbene ci fosse nettamente un inizio, come quando la pompa comincia a funzionare e il tubo di gomma si increspa un poco, ma ora la sua fiducia cresceva sempre, come cresce la marea e come la linfa sale in un tronco, finché egli cominciò a pregustare quell'assenza di preoccupazione che si trasforma spesso in una vera e propria felicità prima del combattimento. Attese che Maria lo raggiungesse con Pilar e Rafael e i cavalli. «Hola, guapa!» le disse nell'oscurità. «Come stai?» «Io sto bene, Roberto», essa rispose. «Non ti preoccupare di niente», le disse passandosi il fucile nella sinistra e le mise una mano sulla spalla. «Non mi preoccupo. Tutto organizzato benissimo. Rafael sarà con te e con i cavalli. Preferirei stare con te?» «No, con i cavalli sei molto più utile». «Bene», essa disse. «Ci starò». Proprio in quel momento uno dei cavalli nitrì e dalla radura sottostante giunse attraverso le rocce la risposta di un cavallo e il nitrito salì fino ad un tremolo acuto bruscamente interrotto. Robert Jordan vide davanti a sé nell'oscurità la massa dei cavalli nuovi arrivati. Accelerò il passo e li raggiunse con Pablo. Gli uomini stavano accanto alle loro cavalcature. «Salud!» disse Robert Jordan. «Salud!» risposero. Nel buio egli non riusciva a distinguere i loro visi. «Questo è l'Inglese che viene con noi», disse Pablo. «Il dinamitardo!» Nessuno rispose. Forse nel buio annuivano. «E ora andiamo, Pablo», disse uno degli uomini. «Sarà presto giorno». «Hai portato delle altre bombe?» chiese un altro. «Ne ho portate molte», disse Pablo. «Rifornitevi pure quando lasceremo i cavalli». «Allora andiamo», disse un altro. «A momenti passeremo qui tutta la notte». Pablo salì sul gran baio. «Tenete chiusa la bocca e seguitemi», ordinò. «Vi porto al posto dove dobbiamo lasciare i cavalli».